24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa da Anna Marino. All'indomani del via libera, condizionato della Germania alla ratificazione del Fondo Salva Stati, il richiamo della Banca Centrale Europea. È essenziale che vengano rigorosamente rispettati gli obiettivi di bilancio in maniera sostenibile e che i disavanzi eccessivi siano corretti entro le scadenze concordate. Così il bollettino della BCE, riferendosi ai paesi impegnati nel risanamento dei conti. Ferma nel difendere il proprio operato, realista e diretta nel descrivere la zona euro. Nel bollettino mensile Francoforte ribadisce di aver messo sul tavolo il piano di acquisto di titoli di Stato per combattere le gravi distorsioni originate da timori infondati sulla reversibilità dell'euro. Una scelta dei termini non casuale, come sempre avviene all'Eurotower, ma dato che la BCE non è un organismo politico in senso stretto e la logica non si discute, il direttivo ha anche ripetuto che tale piano presuppone l'osservanza degli impegni presi dai governi sul risanamento dei conti. Per l'Italia un richiamo specifico, perché un risanamento incompleto la esporrebbe a nuovi rischi. La situazione non è rosea e Francoforte lo mette in chiaro. Le stime di crescita riviste al ribasso restano quelle. Nell'anno in corso il PIL di Eurolandia segnerà una variazione compresa tra meno 0,6 e meno 0,2%. L'anno prossimo il PIL registrerà una variazione tra meno 0,4 e l'1,4%. Il lavoro resta il nodo più difficile. La disoccupazione, cresciuta già negli ultimi trimestri a livelli elevati, a breve termine crescerà ancora, perché la situazione economica è ulteriormente peggiorata. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la sentenza della Corte tedesca e il fondo pronto a intervenire, ora tocca ai governi. Il commento di Alessandro Merli. La Corte Costituzionale tedesca ha finalmente dato il via libera ieri al Fondo Salva Stati Europeo ESM. Questo consentirà di sbloccare anche gli interventi promessi la settimana scorsa dalla Banca Centrale Europea per sostenere il debito dei paesi dell'Eurozona in difficoltà. La Corte ha imposto una sola condizione importante, che l'impegno della Germania non superi 190 miliardi di euro già concordati dal governo di Berlino con i partner europei e che rappresentano il 27% delle risorse del fondo, pari a 500 miliardi di euro. Ma anche questo limite potrà essere superato con il consenso del Parlamento tedesco. I mercati hanno fatto festa dopo l'annuncio, ma la sentenza è stata una vittoria anche per il cancelliere tedesco Angela Merkel, che da mesi sta cercando di navigare per trovare una via d'uscita alla crisi dell'Eurozona senza pesare eccessivamente sui contribuenti del suo paese. Ora il fondo sarà pronto a intervenire nel giro di poche settimane insieme alla BCE a una forza di fuoco sufficiente per contenere la crisi. Ma a questo punto tocca ai governi interessati, prima di tutti quello spagnolo, chiedere gli interventi. Madrid è stata finora riluttante, ma è molto probabile che dopo l'euforia di questi giorni i mercati tornino a metterla sotto pressione fra non molto. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Mercoledì la Commissione europea ha inoltre formalmente adottato a Strasburgo la proposta legislativa che istituisce il meccanismo unico di vigilanza delle banche dell'Eurozona, che dà alla BCE poteri di sorveglianza sui circa 6.000 istituti di credito dell'Eurozona. E a difesa dell'euro interviene Monti. Senza moneta unica oggi i prezzi sarebbero più alti. Secondo il presidente del Consiglio italiano, l'ingresso dell'Italia nell'euro ha portato benefici per l'inflazione. Può esserci stato uno scalino iniziale nei prezzi, ma adesso che sono passati 12 anni dalla nascita dell'euro e 9 anni credo dalla nascita dell'euro nelle tasche dei cittadini o 10, ebbene, oggi i prezzi in Italia dei beni e servizi, se l'Italia non fosse passata all'euro, sarebbero sicuramente considerevolmente più alti di quelli che sono. Sentiamo ora com'è andata la giornata ieri per le borse europee. Giornata negativa per le borse europee, ad eccezione di Londra, in attesa delle decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Americana. A mercati europei chiusi, la Fed ha annunciato, tra le altre misure, un nuovo piano di acquisto bond da 40 miliardi di dollari al mese. Milano, reduce da un guadagno dell'8,5%, in 5 sedute ha perso oltre l'1%. La peggiore sul FTSE MIB è stata Finmeccanica, scivolata di oltre il 5%, sui timori con una possibile fusione fusione tra Hertz e Buy Systems possa avere ripercussioni negative sulla società. In netto calo le banche dopo il balzo della vigilia, mentre la Consob dovrà decidere se prorogare o meno il divieto di vendite allo scoperto introdotto a fine luglio. MPS, BPM e Unicredit hanno perso il 3% circa. Per contro hanno chiuso in positivo Fiat e Diasorin, premiate dai giudizi positivi rispettivamente di Goldman Sachs e Mediobanca. Nel resto del listino è continuata la corsa di Tiscali, più 5%, con il mercato che scommette su possibili movimenti nell'azionariato. È scivolata ancora Sopaf, meno 13%, dopo la richiesta di fallimento presentata da Unicredit. Livia Zancanera da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Megafusione in vista nel settore aerospaziale e difesa. Con le trattative tra Hertz e BAE si profila un colosso europeo da oltre 200.000 dipendenti che riunirebbe gli interessi di Londra, Berlino e Parigi. All'orizzonte c'è un colosso dell'industria aerospaziale, che significa aerei militari e civili, ma anche sistemi di difesa, armi e munizioni, tecnologie d'avanguardia, satelliti, spazio, progetti segreti e leve di un resico mondiale di commesse miliardarie che riguardano Nuova Delhi come Washington, Riyadh come Pechino. Hertz, cuore franco-tedesco con 133.000 impiegati in 170 paesi, vuol dire anche Airbus e Eurocopter, mentre BIA, anglo-americana, che di impiegati ne ha 96.000, è militare a tutto tondo e a tutto campo. Coinvolgendo direttamente i governi di Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, si capisce il portavoce di Berlino che ieri l'ha definita una transazione complessa con significative implicazioni per le politiche industriali e di sicurezza di molti paesi. Insieme i due gruppi arriverebbero a una capitalizzazione da 38 miliardi di euro, tre soli in meno della Boeing, che è prima nella produzione commerciale ma anche seconda nel settore della difesa. Già unite nel progetto Eurofighter, cui partecipa Finmeccanica, le due società trattano ad uno stadio avanzato. Hertz si aggiudicherebbe la maggioranza con un 60%, mentre BIA otterrebbe il rimanente. Ci sarebbe un board unico, ma due quotazioni separate in borsa, mentre Francia, Germania e Regno Unito riceverebbero una golden share nel capitale del nuovo gruppo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Dopo il violento attacco al consolato americano a Bengasi e le proteste al Cairo, il presidente egiziano Mohamed Morsi, in visita a Bruxelles e a Roma, si è detto contrario a ogni insulto al profeta, ma ha anche detto di rifiutare la violenza. E violenti proteste sono scoppiate in Egitto e in Libia, dopo la diffusione su YouTube del film del regista israelo-americano Sam Basail, Innocence of Muslims, l'innocenza dei musulmani, che ritrae in termini satirici il profeta Maometto. Morsi ha incontrato i vertici dell'Unione Europea a Bruxelles nel corso del suo primo tour europeo dalla sua elezione a giugno. In serata il primo presidente egiziano si è spostato a Roma per un incontro con il premier Mario Monti. Oggi incontrerà il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E sull'assalto al consolato statunitense è intervenuto anche il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso. We call on the Libyan authorities to take all necessary measures to ensure such events do not reoccur. Abbiamo chiamato le autorità libiche perché prendano tutte le misure necessarie, perché non accadano ancora questi fatti e per assicurarci che vengano protette le ambasciate e i cittadini stranieri nel paese. Allo stesso tempo fatemi dire che l'Unione Europea condanna le offese alla religione. Ho il massimo rispetto per l'Islam e per tutte le altre religioni. La libertà di espressione non deve essere confusa con la propagazione dell'odio, con l'intolleranza, con il razzismo. E noi condanniamo, nei termini più pesanti, queste manifestazioni di odio. Detto questo, voglio anche che sia chiaro che non c'è mai una giustificazione valida per uccidere delle persone innocenti. Primo via libera dell'Europarlamento a nuove norme per le etichette dei prodotti ittici freschi, ma si scatenano le critiche del gruppo di socialisti e dei consumatori europei. L'Assemblea di Strasburgo ha infatti modificato la proposta legislativa originaria della Commissione europea che prevedeva l'obbligo di indicare nell'etichetta del pesce la data di cattura in mare e non quella dello sbarco a terra. Il testo passerà ora all'esame del Consiglio europeo. Approvate a Strasburgo nuove norme che garantiscono un'assistenza uniforme nell'Europa. Secondo la vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli, con l'approvazione della direttiva sulla protezione delle vittime di reato, l'Europa pone finalmente al centro dell'attenzione la persona, considerandola rispetto alle proprie caratteristiche personali ed esigenze. E questa era l'ultima notizia. Un saluto da Anna Marino. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.